Sei su Radio Wombat e questa è Hot Blast. Seen enough to eye you, but I've seen too much to try you. It's always weirdness, why you dig it much too much to fry you. The weirdness flows between us, anyone can tell to see us. Freak scenes can't believe us, or can it just be cool and free us? Ciao a tutti, benvenuti a tutti per l'ennesima trasmissione di 8 Hertz su Radio Wombat. E stasera si parte così e si parte da qua con i Dinosaur Junior, il famosissimo brano Freak Scene tratto da Bug, che è il terzo disco che fecero, prodotto dalla mitica SST del 1988. Partiamo da qua e ho voluto intitolare un po' questa puntata un po' stupidamente, un po' non so come, guardi i piedi ma non vedo più, perché stasera ci saranno vari brani che hanno a che fare comunque con lo shoegaze. Questo non era il caso, ma insomma possono sembrare delle forme vicine a questo modo, questo suono un po' triste, minore e minorato di un sacco di band, e per vedere poi come in realtà si sviluppa un po' il concetto dello shoegaze, dando spazio anche a delle cose più elettroniche o più proprio di sperimentazione pura. E volevo farvi ascoltare, dopo i Dinosaur Junior, un altro gruppo sempre di quel periodo, che sono i Nomins No, grandissimi canadesi che hanno spaccato tutto fino a che hanno suonato, poi dignitosamente hanno detto: noi non suoniamo più e non ci riformeremo mai, speriamo sia vero. E questo power trio di basso, batteria, chitarra, che già negli anni 90, ma iniziarono, si sono formati nel 79, quindi già a fine 80 non erano più proprio i ragazzini che vedevi suonare sul palco, ma erano già un pochino più attempati e proponevano un altro modo di protesta musicale attraverso i bassi anche abbastanza ipnotici, una batteria bella roboante, erano molto molto bravi. Però il pezzo che metto stasera è un po' differente dalle cose che hanno fatto, così come è differente anche un po' l'album che si chiama One, che era del 2000, quindi diciamo nella fase post-punk loro. E c'è, tra l'altro, in questo disco c'è anche una bellissima versione di un brano jazz che si chiama Bridges Brew, e poi prima o poi vi farò ascoltare, di Miles Davis. E qui vi faccio sentire l'apertura di quest'album, che quel primo brano che si chiama The Graveyard Shift, perché è una cosa un po' insolita, molto melodica e anche un po' molto malinconica, come un po' i suoni di questa puntata. Quindi intanto ascoltatevi questo brano dei No Means No. shift. It's quiet, I can read all night. I don't mind wearing a uniform. I don't mind walking in the dark. You make your rounds, you check all the locks. And when the sun rises, when everyone is getting up, you punch out and go home. Insomma, stasera vi faccio ascoltare dei gruppi abbastanza conosciuti nell'ambiente post-hardcore, hardcore, post-punk, post-tutto, così come erano i nomi in sono. E un altro importantissimo gruppo stasera ha a che fare con queste sonorità un po' malinconiche, un po' shoegaze, nel senso che lo shoegaze era chi suonava si guardava i piedi mentre zappava sulla chitarra, diciamo, era questa un po' l'immagine. Insomma, comunque c'entrano in qualche modo nella puntata anche i Fugazzi, che ovviamente non sono shoegaze, ma che in questo brano è molto molto emotivo e anche un po' il portabandiera della loro idea di movimento straight edge, che gira ancora, ma girava molto negli anni 80-90, per cui se vuoi protestare, non avere nessun tipo di vizio, togli qualsiasi tipo di vizio, perché se no non riesci bene a incazzarti e a odiare a dovere, a modo, come si dice in Toscana. Insomma, il pezzo, questo gruppo, anzi, è di Washington DC, era di Washington DC, si formò nell'87, poi tanti di loro hanno continuato a suonare, oppure come Ian McKay e Guy Picciotto hanno proprio fatto dei produttori, ovviamente come Ian McKay continuano ad avere un'etichetta che si chiama Discord, che è la prima etichetta al mondo che era Do It Yourself, così come proponevano loro l'arte di fare tutto da soli e arrangiarsi e avere così tutto sotto controllo contro il mondo dell'establishment musicale. Quindi nessuno lucrava su di te, ma al limite ci lucravi te stesso. E insomma riuscivi a non essere sfruttato e avere il controllo totale su tutto quello che facevi, anche appunto in musica. Comunque il pezzo si chiama Reclamation, è attratto da In On The Kill Taker, che è un discone, è famosissimo, è il terzo disco, È proprio un inno sullo straight edge. E comunque, anche se su un sacco di gruppi che facevano neopsichedelia o shoegaze erano abbastanza fattoni, ecco, questo non era proprio il caso. Loro, che ripeto, non facevano questo tipo di musica, ma a me mi è piaciuto inserire all'interno della puntata anche un brano loro che secondo me accomuna un po' questo filo mentale che poi è quello di 8 Hz tra il saltare tra musiche, tempi e band diverse, anche come natura. C'era un pezzo che mi colpì tanto dei Dead Kennedys che si chiama Moon Over Marine. E era un pezzo molto molto differente da un po' quasi tutto il resto del loro abbastanza, insomma, capiente discografia, perché lo trovavo, a parte che dei ritmi un po' più lenti, però anche un po' più sonico nel modo di suonare, e sembrava una cosa che appunto potesse insegnare a tanti altri. Era un'idea, diciamo, di quello che potevi anche fare. E ho ritrovato questo brano rifatto divinamente da un gruppo che è venuto un pochino dopo loro, che si chiamano Les Stugs. Les Stugs? francesi, che erano sì anche loro comunque fine anni 80, primi 90, poi si sciolsero. E trovai questa cover appunto in Virus 100, che era una compilation famosa dell'Alternative Tentacles, dove tantissimi gruppi del periodo, anche nomi grossi, coverizzavano i Dead Kennedys, tra cui appunto c'erano anche Sepultura, i Faith No More, Napalm Death, i Neurosis, e anche Disposable Heroes of Hypocrisy, che fecero questa versione hip hop di California Uber Alles, che fu un mito. E insomma, c'erano anche loro che proprio coverizzarono Moon Over Marine. E insomma, secondo me è un po' come, non vi so spiegare, è come se doveva suonare così l'originale, quasi. E quindi ve la faccio ascoltare come esperimento riuscitissimo, che ci sta un po' in questa puntata che gioca molto sui minori e sulle schitarrate veloci, ma su ritmi non veloci, insomma, per dirvela un po' così. Comunque, le Stooges, Moon Over Marine. We'll be right back. siete su Radio Wombat, questo è 8 Hertz. Se vi piace 8 Hertz, lo trovate ogni settimana il giovedì sera alle 21.15 e poi anche in replica il venerdì alle 19.30 e il sabato alle 14.30. E così come ogni programma che trasmette su Radio Wombat, ce ne sono tantissimi, da quelli musicali che possono essere La fuga del gatto di Classico, Slick Chicks o Tonight Alive, anche ai programmi di informazione, come può essere Coccole al silicio, che nessuno cita mai, che è sui temi astrusi dei nerd tecnologici, oppure ai discorsi sulla piana o su Radio Contado, sulla piana e passaggio a nord-ovest, ecco. Ce n'è per tutti i gusti, quindi trovate tutto, ovviamente il programma completo su wombat.noblogs.org, che probabilmente già conoscete, perché se no non ci ascoltate, a meno che ci state ascoltando sulla frequenza M all'1359, oppure potete trovare anche qualche notizia ma non completa sia su Facebook che sia su Twitter. Insomma, vi consiglio di dare una bella spulciata e anche di ascoltarvi i podcast passati se vi piace una trasmissione o se volete approfondire su qualche questione sociale. Insomma, sul sito è tutto registrato e offerto gratuitamente a voi, perché si parla sempre di una radio autofinanziata e autocostruita che viene dal bassissimo, per cui insomma vi potete sbizzarrire a trovare di tutto di più, tutto quello che è stato fatto ormai quasi da 3 anni, o si sono superati, non mi ricordo perché io con i tempi non ci capisco niente, insomma è già da un po', che almeno 3 anni che questa Radio Wombat sta andando avanti. E passiamo un po' alla seconda parte della trasmissione, che è un pochino più pesante, perché andiamo un po' più sullo shoegaze vero e proprio, anche se i pezzi che vi metto sono non le classiche musiche pop dai quali ispiravano appunto lo shoegaze come struttura di base, ma qualcosa di diverso, già di qualche esperimento che già girava tra le band principali che facevano shoegaze, così come gli Slowdive, che era un gruppo inglese che iniziò appunto anche loro a fine anni 80, nell'89 precisamente, e fecero solamente 3 dischi, poi si sono riformati pochi anni fa nel 2014 per fare un disco, e il terzo disco si chiama Pygmalion. È veramente assurdo, perché pur essendo un gruppo che appunto partiva dallo shoegaze, sono arrivati a fare una cosa che è minimale, quindi è quasi un paradosso rispetto ai suoni saturoni dello shoegaze, e anche volendo quasi elettronico e ambientale. Di Pygmalion non metto un brano, ma metto un brano tratto dalle demo di Pygmalion, che era un disco che uscì per la Creation nel 95, perché sono ancora più assurdi in realtà del disco stesso, anche se sono più crudi. Era un po' lo scheletro sul quale la produzione poi ha costruito il Pygmalion album vero e proprio. A me piace invece considerare che Pygmalion è quello vero, sia quello delle demo che poi hanno rilasciato e così tutti possono ascoltare. Insomma, questo è il famoso brano Miranda, però la versione demo, che è molto molto diversa. Slowdive, Miranda, buon ascolto. Thank you. Non potevate non ascoltare stasera My Bloody Valentine, che metterò ora, che appunto con una manciata, con un paio di EP e un paio di dischi si aggiudicarono come premio il fatto di essere considerati come una delle band più importanti dei primi anni 90, proprio perché dissero gli altri, dissero comunque che affideranno a loro il ruolo di creatori dello shoegaze, e loro ovviamente portarono la cosa agli estremi, come diciamo piccolissimo genere che rientra in una cosa più grossa che è la neopsichedelia, o ancora più grossa ovviamente la psichedelia di matrice rock. Erano come frullare i Velvet Underground con il pop inglese di quei tempi, ma inserendoci anche una buona dose di ethereal, un po' alla Cocteau Twins, diciamo. E il pezzo che vi metto ovviamente è tratto da Loveless, che è l'album leggendario loro, considerato un po' una pietra miliare da tutti. Il pezzo però si chiama The Ear Knows When, che è uno dei brani meno orecchiabili, perché diciamo all'interno di questo album, così anche delle loro altre produzioni, non ci sono solo semplici canzonette, ma ci sono dei brani che sono di sperimentazione abbastanza elevata, come questo, che è quasi un'operetta, sa quasi di elettronico, di classica o proprio di sperimentazione vera e propria, al di là delle strutture pop che venivano date e usate, che vengono insomma da molti anni prima, e soprattutto dal beat, dai Beatles, che insomma dai quali prendevano un po' tutte le band, soprattutto inglesi. Loro hanno stravolto anche il fatto di dover fare una canzone con degli schemi che possono essere strofa e ritornello, e hanno fatto un po' come cavolo gli pareva. Tra l'altro, ci sono leggende sulla produzione del disco che fece quasi fallire l'etichetta, perché insomma usarono tantissimi tipi di effetti e insomma spesero un sacco di soldi per un disco che poi non è appunto il disco pop e la cosa più conosciuta da tutti, ma che comunque rimane un vero e proprio capolavoro. My Bloody Valentine, To Hear Knows When. gli inconfondibili My Bloody Valentine con la loro distorsione a segheria praticamente, e mentre c'è questo finale grottesco del brano. E insomma, guardare in basso, guardare i piedi fino a un certo punto e poi vedi attraverso e vedi oltre le cose, e quindi un po' il giochino è questo, che vi sto anche guidando verso una meta che non c'è, verso degli altri tipi di vista della percezione. E vi metto ora un brano proprio di Lawrence English, che avevo già fatto ascoltare pochissimo qualche puntata fa, recentissimamente, però finalmente ho ascoltato il disco che avevo preso quando l'ho visto suonare in Sala Vanni, che è The Peregrine del 2011, e l'ho trovato molto molto bello, e in realtà anche questo disco mi ha un po' fatto venire in mente questa puntata, oltre ad altri ascolti che stavo facendo. Vi metto quindi un pezzo. The Peregrine è tratto proprio, è ispirato al romanzo proprio The Peregrine di John Alec Baker del 1967, che non ho letto ma leggerò prestissimo, e che appunto riguarda l'osservare il falco pellegrino, che diciamo che è un po' un dio che tutto vede e rappresenta anche un po' la conoscenza divina anche in vari tipi di religione. Ovviamente in quella egiziana era assimilabile a Horus, quindi insomma uno tra i più importanti, quindi un animale importantissimo per un sacco di ragioni che ora non spieghiamo. Però vi faccio ascoltare il brano, che è anche un po' uno sviluppo, secondo me, di cose che avete sentito prima, rielaborate tutte in un modo ovviamente più ambientale, come sa fare Lawrence English. Per cui più che parlare di queste cose ve le faccio ascoltare, che forse è meglio anche per voi, che vi potete così rilassare un po' di più a sentirvi i brani. Questo pezzo si chiama December 24, Frost Bitter Grip, Lawrence English, tratto dal disco The Peregrine, scusate, del 2011, che è uscito per Experimedia. Thank you. E siamo partiti da strutture pop o punk per arrivare all'ambient o al drone o cose etere, comunque prive di una struttura, diciamo, pop appunto, o ben connotata, ben decisa, diciamo, per arrivare appunto alla fine di questa puntata mettendo un ultimo brano che ha una cover e praticamente parte dal pop per arrivare a qualcos'altro, e quindi trovate tutto quello della puntata in questo brano, che è un brano di Nadia. Il brano in realtà sarebbe dei Cure, quelli famosi, e si chiama Fate, quello famoso. E loro lo coverizzano in un album che si chiama When I See the Sun Always Shine on TV del 2009, che è appunto un insieme di brani coverizzati da loro, e appunto ci sono anche My Bloody Valentine, tra l'altro ci sono anche quindi tanta roba degli anni 90, anche Shoegaze appunto, però questo brano qui l'ho trovato quello più monolitico, che ci stava, anche più etereo della puntata e anche un po' riconoscibile. Ricordo che in Nadia sono Aidan Baker di Toronto e Lea Burkeff, sono un duo, anche loro utilizzano delle distorsioni al limite dell'umano, però un pochino più sulle medie, appunto più a segheria, un po' come i My Bloody Valentine, che poi segheria lo chiamo io, ma ci sarà un termine ben definito dai teorici della musica. E quindi con questo brano vi saluto, vi do la buonanotte, ci sentiamo giovedì prossimo alle 21:15 per una nuova follia. Spero che il vostro cervello vi sia scosso a modino. E intanto parte l'intro, che è un po' lunghina, e a prestissimo. Ciao, buonanotte.